edizione. 16 e 17 minuti, subito pronti coi quotidiani questa mattina in edicola per sfogliare le prime pagine, quelli che sono i temi dominanti della giornata. Naturalmente apertura un po' per tutti dedicata ancora agli scontri sabato a Roma. Cominciamo dal Messaggero, dal quotidiano della capitale. Scontri di Roma, caccia ai violenti, 12 arrestati, la procura non contesterà il terrorismo ma è polemica sulla gestione dell'ordine pubblico. E ancora centro pagina, il tema è lo stesso: sicurezza, i buchi del piano, centro blindato a Piazza San Giovanni, però solo 40 agenti. Alemanno, basta buonismo, ora punizioni esemplari, così sul Messaggero, che tira anche un sospiro di sollievo per come è finita invece ieri sera il derby dell'Olimpico, senza scontri, derby ad alta tensione, la festa è della Lazio, così il Messaggero. Il Corriere della Sera li svela questi piani, così hanno preparato l'attacco, è il titolo. Dietro gli scontri di Roma, in 500 tra i 17 e i 25 anni, con messaggi via web. Assalti con una regia unica, scrive il Corriere della Sera. Addestrati in Valsusa, mazze e bombe carta nascoste lungo il percorso. Aldo Cazzullo scrive: come a Londra, denunciateli. Centropagina, Maroni, poteva scapparci il morto, identificati con i video 100 violenti. Così sul Corriere della Sera. Centropagina, anche le primarie francesi, Hollande vince le primarie e festeggia con la rivale, l'avversario socialista di Sarkozy. La Stampa, anche qui Maroni, evitato il morto, caccia in rete ai volti dei black bloc, gli indignati dicono li smaschereremo. Una notizia diversa, quella scelta dalla Stampa per il centro pagina, con un'immagine: in cambio di Shalit 447 nomi che fanno paura, tra i prigionieri liberati anche assassini e terroristi, ma molti non potranno tornare a Gaza. La notizia è quella del soldato israeliano che dovrebbe essere liberato domani, ma in cambio di un migliaio di prigionieri palestinesi. La Repubblica, Maroni, evitato il morto, questa è l'apertura, ma è bufera sul Viminale. Gli indignati, denunciamo i violenti. Anche qui a centropagina è Hollande l'anti-Sarkozy, a lui le primarie francesi con il 56%, ma sulla Repubblica anche altri due temi. Il caso Romano, il PDL va all'attacco di Fini, il presidente della Camera aveva chiesto le dimissioni del ministro. A Napoli ha criticato il governo per i ritardi nell'affrontare la crisi economica e ha detto appunto Fini che il ministro Romano dovrebbe dimettersi. E poi ancora sulla Repubblica, Berlusconi, ecco le telefonate shock con la Vitola: serve una rivoluzione, con milioni in piazza, facciamo fuori il palazzo di giustizia, diamo l'assedio a Repubblica, così i verbali pubblicati questa mattina da La Repubblica. È lunedì, c'era grande attenzione per il derby, per il derby romano. Allora guardiamo anche la Gazzetta dello Sport. Lazio, super derby pazzo, il posticipo Roma avanti, poi battuta 2-1, così sulla Gazzetta dello Sport, che scrive anche però: aiuto, spariti gol, ben 5-0-0. E poi c'è un'immagine di Moratti, del presidente dell'Inter, Moratti che sbotta: io non ci sto, la squadra adesso è spaventata dalla classifica penultima, spero sia finito, dice Moratti sulla Gazzetta dello Sport. Il bonus di errori arbitrali contro l'Inter, 3 rigori su 4 non c'erano, e c'è da giurarci che sarà un tema di ampia discussione nel corso della giornata. Il Sole 24 Ore del lunedì, conti esteri nel mirino, manovre mercati, dopo Germania e Gran Bretagna Berna punta sull'accordo anche con l'Italia, contatti con la Svizzera, anonimato per chi paga le tasse, questa è l'apertura. Sole 24 Ore, che oggi però pubblica anche il Focus Ambiente, l'ecosistema urbano di Legambiente, un ampio dossier. Nelle città del nord-est la ricetta della sostenibilità, Venezia, Bolzano e Belluno in testa alla 18ª edizione del rapporto, così scrive il Sole 24 Ore. Ne parleremo più avanti anche noi a prima edizione. Ora però cominciamo anche con i nostri approfondimenti. E anche noi una giornata come questa non potevamo comunque non tornare sugli scontri di sabato a Roma, e allora questa mattina lo facciamo riproponendosi di un'intervista che Francesco Maesano ha fatto con Franco Maccari, che è segretario nazionale del COISP, il Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia. Sentivate anche prima sul Messaggero Alemanno che dice basta buonismo, ora punizioni esemplari, e allora sentiamo che ne pensano i poliziotti. Non vogliamo più la solidarietà dei politici, ma non perché voglio essere scortese o altro, ma perché questa solidarietà pelosa da parte di chi governa, soprattutto in questo momento, ma anche dell'opposizione che poco fa, per essere tale, non ci interessa. A me interessava da sempre di avere un po' di attenzione per dei mezzi da mettere a disposizione dei cittadini per lavorare, non per avere qualcosa in più da mettere in tasca. Sono riusciti, ripeto, il giorno prima della manifestazione a fare un ulteriore taglio di 60 milioni di euro per i prossimi 3 anni, solo per le dotazioni, e noi abbiamo già bloccato per i prossimi 3 anni qualsiasi acquisto, queste immagini, caschi, strumenti, manganelli, qualsiasi cosa, anche gli scudi che sono tutti da sostituire perché sono come un po' le ruote delle autovetture, dopo anni si cristallizzano, no? Sono paradossalmente più pericolosi. È una paura che in questo momento chi governa, anche quello del governo di prima ovviamente, aveva paura, che ha paura di prendere decisioni, che non significa, sia chiaro, non voglio pensare a situazioni di chissà quale retata o chissà quale reazione, però noi siamo lì, come dice sempre il nostro capo della polizia, per garantire a tutti la libertà di manifestare. Nel momento in cui questa libertà viene meno, noi dobbiamo essere forti da impedire che una libertà venga annegata, ma non è una cattiveria, ripeto, è una cattiveria lasciare andare le cose, anche perché oggi siamo qui a parlare di queste situazioni, ma per vero culo, e non parlo in maniera diversa, uso apposta questo termine, è stato veramente un culo non aver avuto un morto per terra. Il linguaggio è quanto mai esplicito, il concetto è quanto mai esplicito, di sicuro, degli scontri di sabato. Continueremo a parlare per tutta la giornata, sarà ancora sicuramente uno dei temi, anche perché, come dicevamo, è partita anche online sui siti la caccia ai violenti di sabato. Un aggiornamento, come spesso capita a prima edizione, le notizie di queste prime ore del mattino, ve l'abbiamo detto nel corso della nostra edizione di GR24, un prete italiano è stato ucciso questa mattina nel sud delle Filippine, secondo l'agenzia Nuova Cina. Padre Fausto Tentorio, parroco della città di Arakan, è stato ucciso da un uomo armato di pistola nella sua casa. L'omicidio, c'è un aggiornamento in questi minuti, di Tentorio, da oltre 30 anni nelle Filippine, è stato confermato poco fa anche da un funzionario governativo delle Filippine. Secondo la fonte, al momento dell'omicidio il parroco stava andando ad un incontro con altri religiosi. Il sacerdote è arrivato all'ospedale locale già privo di vita. Non abbiamo idea di quale possa essere il movente, ha detto per ora la polizia delle Filippine. Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati. Voltiamo ancora pagina, però, prima, e andiamo invece in Francia. Francia, che ha deciso l'avversario di Nicolas Sarkozy nella corsa all'Elysée 2012 ieri sera, sarà François Hollande, che alle primarie del Partito Socialista Francese ha battuto Martine Aubry con il 57% delle preferenze. Je prends acte avec fierté. E allora eccole le sue parole, le prime parole di Hollande ieri sera. Ho sentito la rabbia dei francesi, ha detto nel suo primo discorso, le preoccupazioni quotidiane per la precarietà, la disoccupazione, il caro alloggi, il disordine della finanza, gli eccessi della mondanizzazione, l'insufficienza dell'Europa. Così Hollande, che ha proseguito: voglio dare a questo grande paese che è la Francia la coscienza di poter ritrovare il suo posto. Hollande ha affermato di voler essere il candidato del rispetto. Questo, l'avete sentito, è stato il suo primo discorso. Noi andiamo anche un po' a curiosare però tra i giornali francesi per vedere un po' come presentano questa mattina Hollande. qualche sito. Le Monde, Hollande eletto col 56% dei voti, ex primo segretario, ora è candidato alla presidenza. Libération, il nome della rosa, il titolo questa mattina un po' con un gioco di parole, secondo turno ieri ha superato gli avversari, l'ex segretario è diventato il primo candidato. Un editoriale su Libération, così netta la vittoria, sarà lui, porta i colori socialisti alla presidenza, colui che ora diventa responsabile davanti ai francesi della promessa di cambiamento nel 2012. Per vincere, scrive l'editoriale di Libération questa mattina, ha beneficiato di una combinazione di abilità e intuizione che spesso hanno le vittorie politiche. Considerato un outsider troppo normale di fronte all'ipotesi del lucente Dominique Strauss-Kahn, è riuscito invece a riorganizzare il dibattito e a capovolgerlo anche per l'abbandono, aggiungiamo, del suo avversario. Le Figaro, ora Hollande vuole raccogliere una vittoria larga, ha chiamato a raduno nella sinistra ambientalisti e centristi, così la stampa francese. Prima edizione. Ancora buona giornata da Anna Migliorati, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È il 17 di ottobre, vi parla Daniele Biacchesi. Una scalata bancaria, Unipol BNL, un'intercettazione quella tra consorte e Fassino, uno scoop quello del giornale. Fabrizio Favata, già socio di Paolo Berlusconi, racconta i retrosceni di questa storia a Raffaella Calanda. Siamo entrati ad Arco, abbiamo aspettato 10 minuti e poi ci ha ricevuto Silvio Berlusconi, che dopo le chiacchiere di rito si scusò dicendo che era molto stanco, evidentemente la sera aveva fatto tardi. Disse: vi ascolto a occhi chiusi, però state tranquilli che vi ascolto. Infatti, quando ascoltò la voce di Fassino, di consorte, aprì gli occhi e saltò sulla poltrona e disse: caspita. E mi ricordo che commentò anche il fatto che Fassino disse a consorte: mi raccomando, prepara un piano industriale ben fatto, perché sennò sembra proprio un'operazione politica. Quindi il premier ascoltò quella conversazione soltanto? Solo ed esclusivamente quella conversazione. E che cosa disse dopo averla ascoltata? Ci ringraziò e disse che era estremamente riconoscente, sarebbe stato riconoscente per tutta la vita. Questo lo disse Silvio Berlusconi o Paolo? Silvio, ribadito da Paolo. Qual era la contropartita che lei e Raffaelli contavate di ricevere da questo regalo di Natale, chiamiamolo così? Raffaelli stava cercando di entrare nel mercato rumeno per quanto concerneva il settore delle intercettazioni telefoniche, e se fosse riuscito a entrare ci sarebbe stata sicuramente una gratificazione anche per me e per il terzo coimputato. In che modo contava e sperava di avere un aiuto per entrare nel mercato delle intercettazioni in Romania? Perché la Romania all'epoca doveva entrare nella UE e era importante, per problemi di sicurezza, che ci fosse una rete di intercettazioni molto fatta veramente molto bene, come la RGS è in grado di fare. Quindi. Ecco, ma in che modo Berlusconi poteva aiutarvi? Perché la Romania all'epoca non era assolutamente in grado di pagarsi questa rete di intercettazioni. L'allora presidente della Repubblica Rumena, Năstase, aveva chiesto al governo italiano di finanziare l'operazione e poi ci sarebbe stato un rimborso spalmato in non so quanti decenni. C'erano mai stati contatti con la Telecom? Non lo so. Né con persone che avevano avuto a che fare con la security della Telecom? Non lo so. Non glielo so dire, non me l'hanno detto. No. A me interessava. Prima per vicinanza, diciamo, politica. Io mi definisco un liberal, vicinanza politica, per amicizia nei confronti di Berlusconi, della figlia, di tutto. Conosce Marina Berlusconi? No, della figlia di Paolo, Alessia. Era Italia in controluce, prima edizione, torniamo oggi, seconda edizione, 13:30, Radio 24. Grazie. grazie a Daniele Biacchessi. Nel frattempo, con Prima Edizione, continuiamo a raccontarvela anche noi questa Italia, ma su un tema diverso. Prendiamo a spunto le pagine del Sole 24 Ore del lunedì, che oggi pubblica il Focus Ambiente, ecosistema urbano in collaborazione con Legambiente, un ampio dossier che titola così: nelle città del nord-est la ricetta del sostenibilità. Così il rapporto Sole 24 Ore Legambiente. Allora io saluto Alberto Fiorillo, responsabile aree urbane di Legambiente, per essere con noi questa mattina. Buongiorno. Abbiamo in mano questo rapporto ecosistema urbano, un rapporto che ogni anno fotografa l'Italia, la situazione italiana. Diciamo subito però che il classico gioco di chi è andato meglio, chi è andato peggio, quest'anno non lo possiamo fare perché avete cambiato un po' il sistema di classifica, è così? Abbiamo raggruppato le città in tre gruppi distinti, mentre prima i centri urbani erano in un'unica classifica tutti quanti insieme, adesso abbiamo una divisione tra grandi centri, città medie e città piccole, e quindi spesso a prime in classifica sono state negli anni passati, ricordo gli anni di Parma, ma anche gli anni di Trento, di altre città, le città piccole o medio piccole. Possiamo ancora dire che è così? Ma sicuramente la qualità ambientale nelle città medio piccole è migliore per motivi intrinseci e spesso e volentieri anche perché c'è un rapporto diretto, più che nei grandi centri urbani, tra l'amministrazione locale e il territorio, e questo fa sì che da parte della cittadinanza ci sia una maggiore domanda di qualità e che si ottenga una migliore risposta da parte dell'amministrazione locale. Detto questo, però, noi abbiamo visto che in realtà le buone pratiche poi sono trasversali, ce ne sono alcune molto interessanti anche nei grandi centri urbani. Scorrendo un po' le varie classifiche, Venezia, Belluno, Bolzano, troviamo un po' uno spiccare del nord-est, perché è così? Sì, ecco, noi abbiamo le vincitrici, sono quelle che lei ricordava prima: Venezia per le grandi città, Bolzano per le medie e Belluno per i piccoli centri. Sono tutte in un'area particolare del paese, e così come la coda della classifica è tutta concentrata in una regione, cioè in Sicilia, con 5 capoluoghi siciliani che occupano le ultime 5 posizioni. Allora, ecco, c'è da dire che la lettura delle prime della classe ci pone delle riflessioni, perché Bolzano, consentitemi la battuta, è una città un po' poco italiana, e forse Bolzano è veramente il centro più sostenibile del nostro paese. Belluno gode di una serie di buone pratiche, sia nel campo della gestione dei rifiuti che nel campo della mobilità, ma devo dire è aiutata fortemente dalla posizione geografica, che abbatte le concentrazioni degli inquinanti al di là di quelli che sono i meriti dell'amministrazione. Mentre Venezia è forse la città che più di tutti aiutata. Sì. C'è l'acqua, città, non ci sono le macchine, è gioco facile. È facilissimo, perché sostituiamo l'asfalto con l'acqua e abbiamo automaticamente una riduzione dell'inquinamento atmosferico, una riduzione dell'inquinamento acustico. Insomma, gioco facile. Senti, io le faccio però anche un'altra domanda, perché grosso modo un anno fa, era il 31 di gennaio, ci fu l'alluvione a Vicenza e si parlò di un nord-est e di un Veneto cementificato e quindi con grossi problemi ambientali. Oggi si scopre che le città migliori però sono sempre in Veneto. Come stanno insieme queste due cose? Allora, queste due cose, la domanda è straordinaria, perché queste due cose stanno insieme male. C'è da dire che da questo punto di vista, infatti per questo dico che la sua domanda è straordinaria, perché il Veneto è proprio una delle regioni, insieme alla Lombardia, che probabilmente ha consumato più suolo in questi anni. Il Veneto con i capannoni industriali, che sono diventati quasi leggendari, e la Lombardia invece con l'aumento di costruzioni per gli uffici e per la residenza. D'altro canto però noi abbiamo un sud dove in particolar modo nelle quattro regioni a tradizionale presenza criminale, a tradizionale presenza mafiosa, abbiamo un sud dove c'è un elevato abusivismo edilizio, ecco, e quindi anche lì se da una parte c'è stato un consumo di suolo legale difficilmente misurabile, dall'altra c'è stato un consumo di suolo illegale. Purtroppo anche questo difficilmente misurabile. E quindi insomma una cosa la valutazione della città è una cosa anche di quello che gli sta intorno, sì, ma anche di quello che c'è all'interno della città, perché quest'anno voi avete valutato anche un altro parametro nuovo, importante, la sicurezza urbana, nella quale ci stanno anche cose come lo smog o gli incidenti stradali. Certo. Come siamo messi da questo punto di vista? Preferisco citare quattro numeri in rapida successione relativi all'anno passato. Cioè, a Milano nel 2010 ci sono stati 15 omicidi, ci sono stati più di 30 morti in incidenti sul lavoro, ci sono stati più di 40 morti in incidenti stradali e ci sono stati più di 800 decessi, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per le elevate concentrazioni di inquinamento. Sono impressionanti. Sì. Ci sarebbe ancora moltissimo da dire, tutti i particolari del rapporto ecosistema urbano, io vi ricordo, sono in edicola con il Sole 24 ore del lunedì, torneremo a parlarne anche noi nel corso della giornata, però nel frattempo saluto Alberto Fiorillo che è stato con noi, responsabile aree urbane di Lega Ambiente. Grazie e buona giornata. Buona giornata, grazie a voi. E alle 6:44 minuti voltiamo ancora pagina, torniamo a Roma, perché quella di ieri è stata un'altra serata blindata dopo la giornata degli scontri di sabato. Ieri sera però per fortuna al posto di bastoni e di pietre si sono viste bandiere e sciarpe, perché invece dei black bloc c'erano i tifosi di Lazio e Roma. Il derby è filato via liscio, l'attenzione è stata tutta per il calcio giocato con la Lazio che ha battuto 2-1 la Roma, ma per raccontarvi meglio come è andata la serata, saluto ancora il nostro Dario Ricci. Sì Anna, buongiorno. Beh, in una Roma ancora scossa dagli incidenti della manifestazione di sabato, il derby era atteso anche come una sorta di banco di prova e seppure alcuni episodi non sono mancati, perché tre sono stati i tifosi fermati prima della partita dalle forze dell'ordine e la comunità ebraica romana ha denunciato cori razzisti da parte della curva nord prima del match. Dobbiamo dire che comunque poi la partita si è svolta sostanzialmente in un clima sereno e questo dopo le tensioni di questi giorni è stato già un primo risultato positivo. È un quasi davvero un miracolo, questo sicuramente Dario, però c'è stato anche questa maglietta di Osvaldo destinata ad alimentare altre polemiche. Beh, sicuramente destinata a far discutere, forse in caso di vittoria romanista avrebbe fatto discutere ancora di più, è stata la maglietta messa in mostra da Osvaldo, dal bomber romanista, che una volta siglato il gol dell'1-0 ha fatto vedere questa maglia con la scritta "Vi ho purgato anch'io" in omaggio a Francesco Totti, che ne sventolò una simile nel derby del 99, che ieri era assente perché infortunato. Sicuramente uno sberleffo per la curva laziale e, se posso dire la mia, devo dire che mi è sembrato quanto mai inopportuno alla luce di quanto era accaduto nelle ore precedenti proprio nella capitale. Sembra a volte che questi giocatori non leggano i giornali e non si rendano conto del contesto in cui queste sfide avvengono, e poteva essere una provocazione pericolosa sicuramente da evitare in questo contesto. Testo già surriscaldato da motivi ben più importanti di un derby di calcio. Prima edizione. Dario Ricci è rimasto con noi. Abbiamo ancora un minuto, ma parliamo anche di calcio giocato. Dario, che partita è stato questo derby romano? Beh, per quanto riguarda la partita si è vista una sfida dai due volti, prima tanta Roma, il gol di Osvaldo abbiamo detto, ma anche delle buone occasioni per raddoppiare, poi dopo il calcio di rigore e l'espulsione di Kier per il fallo su Brocchi, un fallo che non è sembrato così evidente ma che comunque c'era, perché comunque il difensore giallorosso tocca Brocchi mentre questi si sta per presentare a tu per tu col portiere Stekelenburg. Beh, dopo l'espulsione e il pareggio di Hernanes si è vista soprattutto la Lazio, che ancora prima della rete allo scadere di Close aveva sfiorato il vantaggio con lo stesso Close, aveva colpito una traversa e poi al 36esimo del secondo tempo con uno straordinario tiro al volo di Sissé che si era spento sul palo più lontano della porta di Stekelenburg. Quindi insomma una Lazio che poi ha raccolto i frutti di questo sforzo per conseguire il vantaggio e la vittoria finale. Grazie Dario Ricci, ti ritroveremo naturalmente nel corso della giornata. Mi ha raggiunto nel frattempo Alessandro Milan, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Non parliamo di calcio però. No, non parliamo di calcio, è stata una grande fine settimana di calcio invece. Con pochi gol però. Con pochi gol, il Milan ne ha fatti tre, quindi poi dopo il resto conta poco. No, scherzo. Ti ho distratto, dai giornali. No, dai giornali ovviamente c'è tantissimo delle polemiche, come hai parlato tu, degli incidenti, della devastazione di Roma. Noi ne parleremo anche con il sottosegretario Alfredo Mantovano alle 8:20. Però voglio segnalare due cose curiose. Intanto non c'è pace per Flavio Tosi, il sindaco di Verona. Sai cosa ha combinato l'ultima? È andato a caccia, ha sparato una lepre, ma ha impallinato anche un suo compagno di caccia che è rimasto ferito lievemente. Tosi spara e colpisce una lepre e un ragazzo. Non è il suo periodo, comunque è un incidente, ha detto, di quelli che capitano, tutto a posto, ragazzo. Qualche pallino qua e là e basta. E poi invece c'è un servizio che voglio segnalare del Corriere della Sera. Si parla di una cosa certo non allegra, però insomma capita, molti divorziano in Italia e pare che siano sempre di più quelli che vanno in Romania, perché in tre mesi si fa tutto, si fa soprattutto quello che in Italia si fa in tre anni. Dopo la fuga per i divorzi, sì, perché la legge europea consente di andare un po' ovunque nell'Unione e vanno in Romania. Tre mesi, è tutto fatto, tutto risolto. Europa anche questa. Europa anche questa. Europa tra l'altro low cost. Grazie ad Alessandro Milan. Questo e molto altro naturalmente nella rassegna stampa. Noi ci sentiamo tra pochissimo con GR24 e tutte le ultime notizie. Buona giornata da Anna Migliorati.